Quanti miei domani hai preso tu il mio ventaglio? Il mio viso è caldo. Fatti, fatti miei. Fa pure pretendi di arrampicarti sui miei specchi e distendi tu i miei panni. E comunque avrai deciso, giocherai con il mio futuro. Il mio prato avrai giallito di più, o ti pingherai il mio muro. E dovunque andrai nel mondo, manderai a tutti il mio indirizzo, anche se brucerà non temere questo fumo negli occhi, sono gli occhi miei. Apri il cuore mio, mostra il mio coraggio ed arrossisci sul mio viso e racconta tu il mio viaggio. Tieni il tempo mio, canta tu il mio inciso, scorrettamente fai di tutto, passa avanti a me. Rischio di affogare.